9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io. Incredibile, incredibile. A leggere il giornale italiano l'indomani delle elezioni di Barack Obama. Solo in tre, su circa 350 articoli, vi dicono che il problema di un'America che premia chi fa 50% del debito pubblico in più e c'ha da 5 anni un bilancio in deficit quasi a doppia cifra, ci pone un problema, perché noi intanto siamo come in Grecia, con 238 pagine della settima manovra in 2 anni da approvare. Allora, se voi esultate per quelli là, non capite che i problemi da noi qua aumentano? Misteri della stampa italiana. Si potrebbe andare tutti quanti, era che primavera. Vengo anch'io, no tu no. Con la bella sottobraccio a parlare d'amore. A proposito di belle sottobraccio, intervista shock del padre di Matteo Renzi al Foglio. Ti parla Tiziano Renzi. Mio figlio spero perda. Vengo anch'io, no tu no. Ma giuro, è di sinistra. Che cosa è peggio delle due, non so dirlo. No tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io. Allora, a proposito di mondo migliore, questa pillola invece è seria. Allora, il vice capo vicario della polizia Nicola Izzo ieri ha confermato le sue dimissioni al ministro Cancelleri. Questa è una cosa veramente che descrive in che condizioni siamo in Italia. Noi abbiamo chiesto quando è uscita questa lettera del Corvo in cui dice che al Viminale gli appalti non si rispettano, le regole si violano, ci sono gli amici degli amici, c'è gente che mette il denaro in tasca. Abbiamo detto qua non è che poi i vertici della polizia possono restare in piedi dicendo basta una lettera anonima, ma cosa volete che sia? La lettera anonima non si dà retta, bisogna fare chiarezza. Il vice capo si dimette, il ministro lo difende perché dice no, la lettera anonima non può cambiare i vertici della polizia. Lui conferma le dimissioni. A questo punto è troppo chiedere che qualcuno faccia un'indagine e dica in pochissimo tempo ai cittadini italiani se al vertice della polizia ci sono dei ladri, e allora in quel caso bisogna punirli. Oppure se queste dimissioni accertate, che cosa vogliono dire? Che i ladri ci sono e sono altri? Perché se un vice capo vicario si dimette, non si può mettere la cosa a pagina 32 come sui giornali di oggi. Bisognerebbe far capire agli italiani che il marcio da qualche parte c'è, le dimissioni le ha confermate. Voglio sapere chi è il marcio. Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io. Vabbè, finiamola qua, va, perché altrimenti poi mi arrabbio troppo. Trovo veramente singolare il modo in cui la stampa italiana si ubriaca. C'è chi racconta ovviamente che c'è un mitico suggeritore del baseball che avrebbe segnato le elezioni americane, c'è chi, cioè lo spirito partigiano con cui la stampa si diletta a descrivere scenari veramente che sono frutto delle nostre lenti ideologiche italiane ed europee applicate all'America. Veramente ogni tanto continua a stupirmi malgrado la mia non troppo verde età. Vi invito, se avete tempo, a leggere non tanto quello che scrivo io sull'eredità del debito e del fiscal cliff americano e che cosa voglia dire per gli statisti europei che l'America se ne fotta del suo eccesso di debito e di deficit, mentre noi dobbiamo tirare la cinghia e vediamo poi saltare le teste di chi è al governo o fuori dal governo prova a spiegare che bisogna continuare a contenere i debiti e i deficit. Ma comunque, se avete voglia di approfondire, leggete Luigi Zingales sul Sole 24 Ore, Alberto Alesin sul Corriere della Sera, tra i pochissimi che non indulgano nel mettere il biscotto invece in melasse varie sul meraviglioso, sulla meravigliosa vittoria di Obama. Ripeto che regala al mondo la possibilità di un ulteriore freno della sua economia, perché bisognerà vedere come adesso un congresso repubblicano, la Camera dei Rappresentanti, possa dare ragione a Barack, che più che tagliare la spesa vuole ancora aumentare le tasse. Vedremo, auguriamoci di no. Intanto occhio al 18° congresso del Partito Comunista Cinese, che inizia oggi. Speriamo che i cinesi, dove non si vota, siano più saggi dei paesi in cui, a quanto pare, nel voto prevale l'idea che debito e deficit non sono un problema. E vabbè, però io non mica mi permetto di giudicare, dico solo che questo è il più grande problema che l'America oggi proietta sul mondo. Invece dire altro è una bella maniera per far tifo o per fare colore, che non dovrebbero essere i due primi impegni del giornalista. Allora, oggi ci occupiamo di una singolare asimmetria tra Italia e Francia. Di fronte ai morsi della crisi, di fronte a una condizione molto seria, ve la richiamo ogni giorno, oggi risparmiatemi di richiamarvi le cifre, che cosa succede? Succede che in Italia non solo non riusciamo a trovare il modo di diminuire sul serio il cuneo fiscale per le imprese e le pretese fiscali contributive per il lavoro, non riusciamo neanche a rastrellare risorse, per esempio tagliando i trasferimenti alle imprese. Ne abbiamo parlato molte volte, ricordate il piano Giavazzi, e c'è stato ieri un aggiornamento, per così dire, del piano Giavazzi. Sono rimasti in piedi solo 500 milioni di tagli. Tentiamo di capire il come e il perché nella prima parte. Nella seconda parte invece della trasmissione ci spostiamo a Parigi e tentiamo di spiegarvi come qualmente invece lì si trovino le disponibilità, le risorse, l'energia e la volontà per un piano di 20 miliardi a favore delle imprese per abbattere il costo del lavoro. Cerchiamo di capire se è realistico, come si fa, perché lì sì e qua no. E tentiamo di capire innanzitutto il perché qua no sul piano Giavazzi, il piano dei tagli, dei trasferimenti alle imprese, al quale la stessa Confindustria aveva detto ma magari se da questo ne deriva un po' di cuneo fiscale in meno per tutto. Invece del mitico piano Giavazzi, in cui lo stesso autore, estensore Francesco Giavazzi, più volte scrivendo sul Corriere, aveva detto al governo: guarda che io te l'ho dato la settimana scorsa, poi un mese fa, un bel po' di tempo fa, perché non vi muovete, eccetera eccetera, alla fine rimangono solo 500 milioni di tagli, e abbiamo deciso di chiedere di spiegarci il perché e il per come, e così allo stesso autore, tempo fa l'ho ricordato, dello scoop che per la prima volta dopo anni e anni era riuscito a mettere le zampe sulla dettagliata attribuzione questa e quella impresa dei trasferimenti pubblici, dopo che per anni si vagolava nel buio anche in ragione del loro ammontare, e che naturalmente ci aveva spiegato che si voleva lavorare nel buio perché c'era una bella sorpresa, perché il più naturalmente dei trasferimenti e dei sussidi andava a imprese pubbliche. E con noi infatti il collega della stampa Alessandro Barbera, che ringrazio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, Alessandro Barbera, ci spiega come mai non si riesce neanche con il governo Monti a fare più di 500 milioni di tagli rispetto ai 10-12 miliardi che tutti speravano da Giavazzi? Si potrebbe dire che forse non c'è la volontà di farlo. Proviamo a partire dai fatti, perché poi naturalmente la volontà di farlo fa i conti anche con una situazione complessiva della nostra burocrazia che non induce, diciamo, alle colpe. Circa metà di questi 33 miliardi sono soldi che vengono distribuiti alle regioni. Mettere in ordine, anche solo mettere in fila e riuscire ad avere una mappa di questi soldi è molto difficile, perché lo Stato trasferisce questi soldi alle regioni, le quali nella loro autonomia, che gli abbiamo dato, ricordo, con la riforma costituzionale del 2001, possono farne quello che credono e non sono neanche troppo tenute a risponderne. Un gruppo di lavoro che si è formato a Palazzo Chigi ha provato a fare ordine sull'altra metà dei soldi, quelli, diciamo, che poteva contabilizzare rapidamente, sono quelli che distribuisce direttamente lo Stato, sono altrettanti, circa 15 miliardi. Hanno fatto questo lavoro i tecnici di diversi ministeri, essenzialmente capi di gabinetto, hanno diviso questi 15 miliardi in due colonne, hanno fatto una colonna delle spese non eliminabili e la colonna delle spese da approfondire. Già la parola da approfondire, diciamo, è un eufemismo che non lascia la sensazione che si voglia veramente agire, ma comunque nelle spese non eliminabili hanno messo tutto quello che secondo loro non si può toccare, cioè le spese per le forniture militari, e fin qui ci siamo, è comprensibile che si sono impegni presi con alcuni fornitori, si rispettino gli impegni, così come si può credere che ci siano alcuni crediti d'imposta che sono stati promessi e che non possano essere toccati. Altra cosa è, io quando ci siamo parlati l'ultima volta di questo argomento l'avevo già detto, altra cosa è dire che non si possono mettere in discussione i contratti di servizio. Noi diamo più di 5 miliardi alle ferrovie, 400 milioni alle poste, 1,5 miliardi, e questa fa parte delle voci di credito d'imposta agli autotrasportatori. Io mi chiedo, e insisto, ripropongo la domanda, come mai noi tutti gli anni diamo 5 miliardi di euro alle ferrovie e però nel frattempo le ferrovie hanno raddoppiato il prezzo dei biglietti per l'alta velocità? Non può il governo, nella sua pienezza dei poteri, chiedere conto, con i tempi che sono necessari, alle ferrovie di tutti questi, di questa mole di trasferimenti? Seconda questione, le spese cosiddette da approfondire. Anche qui in realtà si trattava circa di 3 miliardi secondo i tecnici del governo. Dopodiché, in realtà, fatto una cenere di questi 3 miliardi, i tecnici hanno detto: ma in realtà di questi 3 miliardi possiamo tagliarne solo 500 milioni. Ecco, qui la risposta è del tutto carente, perché non si capisce il motivo per il quale loro pensino che non si possa tagliare nulla. Naturalmente, lì dentro ci sono alcune spese che sarebbe in fondo ingiusto tagliare. Faccio un esempio banalissimo: ci sono 16 milioni, noi contabilizziamo 16 milioni per l'esenzione che garantiamo ai centri per gli anziani dal pagamento del canone RAI. Benissimo, questo è ragionevole, così come è ragionevole non tagliare i fondi alle scuole paritarie. Io sono fra quelli che pensano che in Italia le scuole paritarie, prendendo circa un centesimo del bilancio della scuola pubblica, in fondo quel centesimo se lo meritano. Si vuole esporre a una specie di con questa bella dichiarazione entra in zona delicata, va bene, la faccio proseguire. Me ne assumo la responsabilità, esatto. Diciamo, non chiedo alla vostra testata di farla sua. Altra cosa però, il punto è che dentro a questa mole di soldi ci sono un sacco di voci che sono talmente incomprensibili, questa è la vera pazzia del bilancio pubblico italiano, è che ci sono voci piccole, ma sono tante, tantissime, che sono scritte in maniera talmente involuta, che tanto, siccome noi non sappiamo a che cosa servono, la ragioneria, i tecnici del governo ci possono dire: ma no, questi in fondo non si possono tagliare. Io ho scorso questa lista sulla quale che mi è stata data, insomma ci sono due fondi, c'è scritto fondo per lo sviluppo sostenibile, al Ministero dell'Ambiente ci sono due fondi per lo sviluppo sostenibile, a che servono? Non lo sappiamo. C'è un fondo per lo sviluppo dell'intermodalità nel trasporto combinato, 45 milioni del Ministero dei Trasporti, che ne fa il Ministero dei Trasporti? Non lo sappiamo, però il governo ci dice che non si possono tagliare. C'è, al Ministero dell'Economia c'è il Fondo di Solidarietà Nazionale per gli interventi indennizzatori, non sappiamo a che cosa servono, però ci dicono che non si possono tagliare. Morale della favola, di 30 miliardi alla fine rimangono 500 milioni, non sappiamo il perché e ci dobbiamo fidare di quello che ci dicono loro. Ecco, dunque, non sappiamo il perché, ma ci dobbiamo fidare di quello che dicono loro. Io distingo, adesso chiedo ad Alessandro Barbera se un po' mi segue in questo ragionamento e dirmi come la pensa lui, visto che dopo anni di caccia su questi tipi di documenti, anche le fonti, che naturalmente non vanno rivelate, che non chiedo, ma dicono su chi davvero poi comandi, per così dire. Io distingo due piani. C'è un piano che è molto evidente, è quello, diciamo così, dei grandi gruppi pubblici. Quando dico grandi gruppi pubblici ci metto dentro le ferrovie sicuramente, le poste, ci metto dentro tutto il settore della difesa, finmeccanica, commesse militari. Qui c'è una decisione politica, evidentemente. Una decisione politica di quale poi bisognerebbe approfondire settore per settore, azienda per azienda, perché Ferrovie fosse qua a Moretti ci potrebbe dire: bah, io veramente chiedo da anni al mio azionista di farmi distinguere le attività esposte alla concorrenza e commerciali come l'alta velocità, propongo uno spin-off, voglio addirittura quotarla in teoria e distinguere nettamente, non solo funzionalmente ma societariamente e contabilmente, le attività in cui invece sono, tra virgolette, costretto, chiamato al servizio universale come il trasporto passeggeri locali, dove pure lì ci sono state richieste di aumento, perché pure lì io ho dovuto dire: caro Stato, con quello che mi dai non posso pagare, quindi qualcun altro dovrà pagare di più, le regioni, non le regioni, eccetera, eccetera. e vedremo che in ognuna di queste poi c'è una specie di dialettica interna che all'opinione pubblica è quasi sempre nascosta. Ma lì la decisione politica è: questi livelli per le aziende a controllo pubblico non si toccano. C'è un secondo livello invece che mi preoccupa, non meno del primo, forse più del primo, perché l'ammontare generale sommato è persino più rilevante di quello che la politica decide di tenere per le aziende pubbliche, che è invece relativo a tutti questi fondi di cui, se capisco bene, Barbera mi corregga se sbaglio, il non sappiamo a cosa serve significa semplicemente che c'è un direttore generale in ogni ministero che lì in realtà amministra questi fondi, il direttore generale molto più che la politica, il quale tra direttori generali e tra coloro che hanno steso questo documento al tesoro dividendo in tre ripartizioni il totale di questi due punti di PIL di aiuti alle imprese è, come dire, una partita tra loro, tra vertici apicali della pubblica amministrazione, più che una partita politica. Perché altrimenti io le dovrei chiedere, Barbera, ma lei è convinto che ci sia un politico, un sottosegretario per ciascuno di questi fondi che saprebbe davvero, quando anche le rispondesse al telefono o venisse qua in trasmissione, saprebbe dirci a che cosa servono quei fondi di cui lei ha elencato le molte cartelle che ha avuto in mano riga per riga con i nomi di questi fondi senza riuscire a capire in realtà a che cosa servono? È vero che ci siamo di fronte a due diversi livelli di responsabilità, da una parte una decisione politica che si può discutere più evidente qual è, ma dall'altra una opacità che è tutta tecnica. Questa è la mia impressione, la sua? No, è esattamente così. Anch'io sono convinto che la maggior parte dei ministri e dei sottosegretari, con tutta la buona volontà, non conoscono l'esatto ammontare e la destinazione di molti dei fondi che c'è in ciascun ministero. Ma il punto qual è? Che non si può naturalmente non fare i conti con la storia. Adesso io non voglio condannare qui su pubblica piazza i direttori generali o i capi di gabinetto dei singoli ministeri, i quali spesso fra l'altro loro stessi cambiano ministero e quindi non sono nel corrente delle cose. Che cosa è successo in Italia? Però stia, la fermo un secondo. Se il signor Vincenzo Fortunato cambia i ministri e il colore politico di coloro che ha servito, che è capo di gabinetto del ministro dell'economia Grilli, dopo averlo fatto di Monti, dopo averlo fatto di Tremonti e dopo aver lavorato con Di Pietro e dopo aver già lavorato con Tremonti, quando capitano queste cose non è tanto che cambiano posto perché smarriscono il contatto col potere, cambiano posto perché seguono il potere e continuano ad amministrarlo. Mi prendo la responsabilità in questo caso mia di quello che dico. Lei ha citato una persona particolarmente influente fra fra queste persone. Naturalmente io parlavo in generale del capo di gabinetto che si trova a lavorare magari per un anno in ministero, un anno in un altro, ma insomma, volevo finire il ragionamento. Il discorso era questo. Il problema qual è? Che in Italia per 50 anni si sono avuti governi che non duravano più di 9 mesi, si sono moltiplicate negli anni leggi su leggi che hanno alimentato l'esistere di spese su spese su spese, di fondi di qua, crediti d'imposta di là, cose sulle quali negli ultimi 15 anni evidentemente, da quando diciamo la politica italiana ha trovato un assetto diverso, evidentemente non si è avuta la volontà di mettere mano. L'opacità e i problemi di questi 33 miliardi stanno proprio qui, cioè non è tanto l'ammontare nel suo insieme che fa impressione l'incapacità di ricondurre a unità questi soldi. Quando si comincia a parlare di spending review, ci provò all'inizio Padoa-Schioppa, ci sta riprovando il governo Monti, è essenzialmente fare questo. In Gran Bretagna, dove queste cose le hanno fatte molto tempo fa, il cittadino che vuole sapere quanto si spende per ciascuna voce fra la sanità, il welfare, la difesa, ha una specie di istogramma chiarissimo e può sapere con esattezza quanto il governo inglese spende su ciascuna voce. Noi non siamo in grado di farlo ancora. Questa è una cosa sulla quale l'opinione pubblica dovrebbe essere mobilitata, perché il problema di cui non ci rendiamo conto è che questi sono soldi dei contribuenti, sono soldi che sottraiamo e che potremmo utilmente spendere in cose diverse, e questo è quello che diceva Giavazzi nel suo piano, che non ha responsabilità rispetto a questo. Giavazzi ha detto qual era secondo lui l'ammontare, il problema è che i tecnici del governo non hanno fatto loro evidentemente le indicazioni di Giavazzi, anzi di fatto ne hanno fatto carta straccia, se dicono che al massimo si potrebbe aggredire 3 miliardi, ma poi in realtà di quei 3 miliardi, se tutto va bene, riusciamo a tirarne fuori 500 milioni. Bisogna fare un'operazione di trasparenza. Il governo, questo, il prossimo, chiunque è nelle stanze dei ministeri, deve fare chiarezza sulla destinazione di ciascun piccolo fondo, perché poi l'insieme è fatto da tante piccole spese. La grandissima parte di queste voci sono 2, 3, 5, 10 milioni che ogni anno se ne vanno sono, come dice giustamente lei, nella disponibilità dei direttori generali, prima ancora che dei vertici politici, e non sappiamo che destinazione hanno. Certamente hanno delle destinazioni, certamente non si vi ruba nessuno, ma certamente in molti casi, questo è un problema di inefficienza della macchina statale, vengono destinati a usi inefficienti e potrebbero essere destinati a usi più efficienti. Allora, come si vede, siamo le solite quando non c'è un processo di responsabilità preciso, la politica perde contatto con ciò che ha in pancia, chi dice eccoti la lista, da fuori lo dice Giavazzi, di quello che c'ha in pancia, dopo che da fuori viene la lista, ci si riunisce per capire che cosa sia in pancia, la risposta è, bah sì, ce l'abbiamo in pancia, ma prima non vi diciamo che cos'è, secondo vi diciamo che comunque non si tocca. Un paese così ha bisogno di politici che sappiano dove mettere le mani, disposti a cambiare molti anche dei vertici della pubblica amministrazione. L'intoccabilità di questi, spesso garantita dal Quirinale, si è rivelato un errore clamoroso, corresponsabile della propensione politica a fare spesa e debito pubblico nel nostro paese. La condizione dell'Europa, mentre gli americani tentano di non concentrarsi troppo su come affrontare questo bell'aumento del 50% totale di stock di debito pubblico federale realizzato in 4 anni dal presidente che hanno confermato, l'Europa invece è costretta a fare scelte totalmente opposte. L'Europa da 2 anni e mezzo è alle prese con squilibri che nei fondamentali sono in realtà molto meno gravi di quelli americani, ma nei confronti dei quali i mercati e le agenzie di rating sono molto più dure del tripla A che continuano a garantire al debito americano, che continua a pagare un premio a rischio sovrano totalmente disallineato rispetto alla debolezza dei loro fondamentali. Il mondo è spaccato in due e sempre più andrà in direzioni opposte, visto che gli americani hanno confermato la linea degli ultimi 4 anni, mentre la realtà europea è quella dei greci, che ieri di nuovo c'erano 70.000-100.000 persone radunate in protesta contro il Parlamento greco, per l'ennesima volta alle prese con una manovra che ha comportato altri 6 espulsi dal PASOK, dal Partito Socialista Greco. È stata approvata con una sottilissima maggioranza di 153 parlamentari su 300 ieri. Nel frattempo avete visto che a settembre gli ordinativi tedeschi sono scesi del 3,3%, certo poca roba rispetto al meno 9,6 dell'euroarea, ma abbastanza da consentire giustamente a Mario Draghi di dire che la crisi oramai investe in pieno anche la tanto vantata eccezione tedesca. E vediamo un po' cosa ci dicono le previsioni aggiornate della Commissione europea ieri sugli obiettivi e gli andamenti dei deficit e della crescita per i paesi europei. Beh, ci dicono che per esempio il deficit in Spagna continuerà a essere del 6% nel 2013 e non del 4,5% che in realtà, con lo slittamento di un anno e mezzo, era stato concordato con la Commissione, e che nel 2014 salirà ulteriormente al 6,4%, mentre dovrebbe scendere al 2,8%. Per la Francia la Commissione europea ha previsto un deficit del 3,5% nel 2013 e anche nel 2014, con crescita stagnante nel 2013. E ieri Belgio e Francia hanno iniettato altri 5 miliardi e mezzo di denaro pubblico in Dexia, che è una banca salvata 3 volte nel corso della crisi, con uno schema condiviso tra Belgio, Olanda, Lussemburgo e Francia. E il Senato francese ha respinto la proposta di bilancio pluriennale 2012-2017 che era mirata a ottenere degli obiettivi di deficit pubblico del 3% nel 2013 e poi a riduzione fino allo 0,3% nel 2017. Sulla deindustrializzazione in corso in Francia abbiamo letto nei giorni scorsi documenti e analisi molto preoccupanti, perché il tasso di deindustrializzazione francese è molto superiore a quello italiano, che ripeto è la seconda vocazione manifatturiera nell'euroarea dopo quella tedesca. E di fronte a questi dati però il governo, il piano di François Hollande è stato quello di varare 20 miliardi di sgravi per le aziende. Naturalmente è un piano un po' alla francese, c'è un comitato pubblico che poi sorveglia e va a controllare che le aziende davvero che utilizzo facciano di questo denaro. Però devo dire che 20 miliardi in meno di di cui 10 miliardi già a partire dal prossimo anno sotto forma di credito imposto e poi di abbattimento del cuneo fiscale, insomma, rispetto a quel che non si riesce a fare in Italia, sono una bella differenza. Allora, abbiamo con noi due osservatori che ci consentano di capire meglio da dove nasca questo piano, se le premesse per il suo finanziamento siano fondate rispetto all'andamento della finanza pubblica francese, come mai, insomma, in altre parole, lì sì, qua no. Sono con noi Eric Joseph, che è corrispondente in Italia di Libé, di Libération. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E Marco Mussanet, che è corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Buongiorno e grazie, Marco. Buongiorno a voi. Allora, comincerei da Mussanet per illustrare meglio i dettagli sui quali sicuramente io sarò stato poco male informato. È veramente così? 20 miliardi, si comincia con 10 dal prossimo anno, tra minori contributi e poi crediti d'imposta? Sì, è più o meno così. La misura prevede 20 miliardi a regime, cioè alla fine del triennio nel 2015, in termini di credito d'imposta. Questo è il meccanismo tecnico. Per le imprese a partire dal 2013 con 10 miliardi e poi 5 aggiuntivi nel 2014 e nel 2015. Questo vuol dire sostanzialmente che nella dichiarazione fiscale del 2014 sull'anno fiscale 2013 le imprese potranno dedurre 10 miliardi di tasse. E da dove escono fuori, visto che l'andamento del deficit in Francia, insomma, la Commissione dice: guardate che gli obiettivi del governo Hollande sono monitorizzati ma non facilmente conseguibili. Questa misura in più come si finanzia? Ma dunque, effettivamente qui sta un po' il giochino del provvedimento, che consente alle imprese di teoricamente di utilizzare 10 miliardi già nel corso del 2013, in particolare per rilanciare gli investimenti, e spera il governo di fare delle assunzioni, però l'impatto sui conti pubblici sarà soltanto nel 2014. La speranza ovviamente del governo francese è che l'economia si riprenda tra fine 2013 e poi nel 2014, consentendo quindi alle maggiori entrate fiscali dovute alla ripresa dell'economia di assorbire l'impatto delle mancate entrate del 2014. Ci sarà il finanziamento è comunque assicurato in parte da un aumento dell'IVA che scatterà il 1 gennaio del 2014 e da una prevista riduzione della spesa pubblica che andrà a finanziare gli ulteriori 10 miliardi del 2014 e del 2015. La prima reazione delle imprese e del sindacato francese a questa proposta qual è? Ma le prime reazioni sono positive da parte sindacale, perché contrariamente all'ipotesi di aumentare la cosiddetta CSG, cioè la tassa diretta generale di finanziamento del welfare, che avrebbe impattato immediatamente sulle buste paga e quindi sulla domanda interna, si è optato per l'IVA con un aumento abbastanza contenuto e quindi in modo molto più diffuso. Da parte delle imprese la reazione è stata positiva, perché si tratta comunque di 20 miliardi ai quali è difficile dire di no, anche se la posizione delle imprese era in realtà una posizione diversa che sposava le tesi di Louis Gallois, l'uomo cui il governo francese aveva affidato l'incarico di redigere un rapporto sulla competitività francese, che optava invece per uno shock di competitività più forte, cioè 30 miliardi di riduzione dei contributi sociali in un anno, al massimo due, da finanziare appunto in larga parte con l'aumento della contribuzione fiscale generale sul welfare. E questo è il motivo per il quale dici che in realtà a pochi mesi dalle elezioni, hai scritto ieri su Sole, Hollande cambia rotta, ma per di più hai scritto con poco coraggio. Ma sì, nel senso che avendo deciso, ci mancherebbe altro, questa è un'ottima cosa, di aver preso coscienza dell'esistenza di questo grave problema della perdita drammatica di competitività dell'industria francese, forse ci si poteva spingere un pochino più in là, e cioè sposare le tesi appunto di Galois piuttosto che optare per una soluzione più complicata dal punto di vista della gestione, meno importante in termini quantitativi e soprattutto più diluita nel tempo, i cui risultati francamente andremo a vedere, ma non mi sembrano, come dire, scontati. Allora, Musset è stato preciso nel farvi capire che rispetto al poco o nulla italiano, qua ci sono sì 20 miliardi, non sono lo shock che era stato proposto dall'ex capo di EATS, di 30 miliardi, di cui 20 miliardi in meno per le imprese, 10 miliardi in meno di cuneo per i lavoratori, e hanno un meccanismo di finanziamento, diciamo, diluito nel tempo, un po' tricky, un po' così... un po' costruito in maniera tale nella speranza che gli incentivi intanto facciano effetto, le imprese li utilizzino, poi si vede l'anno dopo, si ritocca l'IVA che era stato detto in campagna elettorale non si toccasse, però certo rispetto al poco nulla italiano è comunque un passo avanti. Invece Yannick Jusseff che ne pensa di questa mossa francese? Non è il meglio, ma rispetto al quasi niente italiano è una buona soluzione di mezzo oppure no? Io penso che l'elemento importante è che ci sia una presa di coscienza in Francia che c'è bisogno di cambiare ruota, perché i dati sono abbastanza chiari. Oggi la quota dell'industria nel PIL francese rappresenta il 12%, un po' più del 12%, e cioè la Francia è proprio in coda dei paesi dell'Unione Europea su appunto la parte dell'industria sul PIL. Siamo sotto la Gran Bretagna, ad esempio, cioè diciamo spesso che l'Inghilterra è un paese desindustrializzato, la Francia oggi è a un livello inferiore a quello dell'Inghilterra. Dunque c'è l'importanza e la presa di coscienza. L'altro elemento è che il rapporto Galois, appunto di cui parlava il collega, il rapporto Galois non parla soltanto dell'aspetto di riduzione del costo del lavoro, fa tutta una serie di proposte in termini di innovazione, di partecipazione dei dipendenti nelle imprese, che è un piano molto più articolato. Poi per quanto riguarda appunto questi 20 miliardi, io temo in qualche maniera che rischia di essere o troppo poco o troppo. Troppo poco nel senso che 20 miliardi appunto non permette di recuperare anche ad esempio il differenziale di costo di lavoro con la Germania, perché si dice che il costo del lavoro tra la Francia e la Germania è di 10 punti, mentre questo provvedimento potrebbe permettere alle imprese francesi di recuperare 1,5%, dunque non è, in qualche maniera è troppo poco per essere veramente un shock di competitività. Rischia di essere troppo perché interviene un periodo in cui siamo già in quasi in recessione anche in Francia, e vuol dire che un aumento dell'IVA rischia di deprimere ulteriormente la domanda, e soprattutto perché se facciamo tutti questi paesi, facciamo questi provvedimenti per abbassare il costo del lavoro e una politica dell'offerta, diciamo, nel stesso momento, rischiamo di trovarsi a aggravare la recessione. Dunque io direi che appunto troppo poco, e mi sembra che manca ancora un coordinamento delle politiche economiche a livello europeo. Va bene, e io non posso che essere d'accordo con questa conclusione, qui l'Europa fenice, araba, ecco, eccetera, eccetera. E riparte la nostra quotidiana ammonizione da parte di Jim Morrison. Sentiamo come la pensano alcuni di voi. Cominciamo con Nunzio da Roma. Prego, Nunzio. Oscar, ciao, buongiorno. Io volevo testimoniare che appunto io sono un consulente informatico e siamo a Roma dentro un ministero, non posso fare il nome, e diciamo che ieri è venuto un altro dirigente e mi ha detto il motivo per cui stanno facendo pressioni. Praticamente alla fine della fiera loro internamente hanno le capacità e il know-how, anche attraverso, con l'aiuto dei consulenti che comunque vengono utilizzati per altre cose, praticamente alla fine risparmieranno, quando il sistema andrà a regime, risparmieranno oltre 2 milioni e mezzo di euro l'anno questo ministero, diciamo. Quindi poi allora alla fine, una volta si sono resi conto che la spesa è elevata a dettaglio dei costi per efficientamento, spingono sempre di più, perché alla fine l'appetito viene mangiando, quindi alla fine quando loro c'è la volontà alla fine a costo zero loro possono tagliare cifre molto grandi, perché io sono una persona sola, capito? Sì. Quindi moltiplicato per N, in tutta Italia, alla fine fa un buco clamoroso, cioè questo voglio dire, nel senso, quando c'è la volontà ce la possono fare anche loro, capito? Quindi la tua esperienza di consulente, in realtà le possibilità di risparmiare i ministeri ce l'hanno e come, però è la volontà che manca. Sì, sono proprio nel limitare, cioè loro potrebbero fare dei salti avanzatissimi, potrebbero utilizzare le tecnologie che oggi stanno e tagliare centinaia di milioni. Adesso non riesco a fare una stima. No, però insomma nella tua esperienza professionale c'è tutto il margine, la questione di volontà. Sentiamo invece Felice da Roma, e vi faccio riflettere che poi sul fatto che quando si tratta di tirare fuori procedure non trasparenti di spese eccetera, è ovvio che chi lavora a Roma ha esperienza diretta. Felice da Roma, sentiamo. Sì, ciao Oscar, buongiorno e complimenti per il programma. Io sì, pure anch'io una mia testimonianza dentro un ministero. Ho visto direttori generali, ne ho passati diversi, che gestivano dei fondi spesso con contabilità speciali, quindi con contabilità extra bilancio del ministero, e gestivano i fondi in maniera del tutto personalistica o al servizio del politico di turno, quindi con consulenze. Consulenze improduttive, cioè io ho visto gente che consulenza di che? Devi dare qualche cosa, senza alcun prodotto, e nessuno chiedeva niente, nessuno chiede niente. Poi io sono andato diversi anni fa perché ero veramente nauseato da questo sistema qui. E la stessa cosa pure per gli appalti, venivano realizzate delle cose praticamente solo per gestire il potere, per gestire le attività. Spesso poi c'erano delle cose veramente oscure o trasparenti a dire poco, insomma, quindi e mi fermo qua, però veramente è vero che è pieno di questi fondi che vengono gestiti da questi direttori generali che li utilizzano per avere la propria dote con il singolo politico che viene di volta in volta e per mantenere la loro posizione. Ecco, questo fatto dell'autoattribuzione di fette crescenti di risorse sulle quali si misura il potere anche agli occhi delle conferme è una cosa che ci ha insegnato James Buchanan, il fondatore della scuola di Public Choice insieme ad altri. Cioè chi è pro tempore ai vertici amministrativi, non solo politici, dell'amministrazione pubblica, identifica nella vastità delle risorse e quindi nell'intoccabilità, come ci diceva Barbera, questo non si tocca, lo hanno deciso i dirigenti del tesoro su fondi attribuiti a dirigenti di altri ministeri, la vastità e l'intoccabilità di ciò che si amministra come quota, a prescindere dalla trasparenza di che utilizzo avrà, diventa il criterio su cui si costruisce l'inamovibilità e quindi l'importanza relativa e l'importanza oggettiva della propria presenza nella piramide pubblica del potere. È così che funziona la pubblica amministrazione. Non diamo giudizi su ciascuno, ma nella sua complessità tanto meno è trasparente, tanto più eterna esattamente questo tipo di meccanismi. Naturalmente quando lo dici ti dicono: ah, liberista americanista del piffero, la pubblica amministrazione siamo noi tutti, il pubblico interesse, l'interesse generale. Ma di che? Quando è, cari ascoltatori, che aprirete le orecchie e gli occhi e farete il giusto, quando verrà il momento, cioè tra poco? Fermare il declino è una mia ambizione un po' sbagliata, se volete, però questa è la mia risposta. Appuntamento a domani.